Palla Spicchi con Carlo Genta. Terz'ultima puntata stagionale di Palla Spicchi del venerdì, poi sarà Mondiale di Calcio con tutta la nostra programmazione speciale. Già che ci sono, vi dico anche che comunque resterà l'appuntamento della domenica sera dalle 8:30 alle 9 fino a assegnazione del titolo, quindi fino a playoff conclusi, il nostro faro per quanto riguarda il basket anche in tempo di mondiali. E già che sono in tema di comunicazioni, lo dico anche qui, domani sera vi aspetto per la finale di Champions League con uno speciale. Ovviamente a Tempo di Sport domani pomeriggio dalle 5 alle 6, 17:18, e poi domani sera dalle 22:30 a mezzanotte tutti invitati qui ad intervenire anche al telefono 800 24 00 24. Ma adesso il basket naturalmente. Ciao Flavio Suardi. Ciao, buongiorno a tutti. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao, buenos dias amigos. So che sei nella bocca del leone a Madrid. Se sono a Madrid e tutti mi chiedono se sono qui per la partita, no, sono qui per un lavoro, infatti domani mattina torno a Milano in volo, vedo la partita come tutti a Milano in televisione domani sera, però qui a Madrid c'è un'invasione di tutti quanti, quindi c'è una grande area qui, assolutamente. Tu scendi dall'aereo domani mattina e sai chi sale sull'aereo? No. Attilio Caia, che è qui vicino a me. Ciao Carlo, Attilio. Buongiorno coach. No, Attilio, ma so che Attilio è interista, quindi io che sono neutro in queste cose qui, io ho abbastanza problemi con le mie squadre di baseball a Chicago, quindi non posso anche avvilirmi per altre cose, quindi so che Attilio è interista, quindi ma tutti qui dicono partita 50-50, nessuno, cioè la gente qui non dà favorita a nessuno. Io dico 60-40 Inter, io dico 60-40 Inter, non fosse altro per il fatto che ha eliminato Barcellona, eccetera. Se Attilio Caia cosa dice? Spera. Senti coach, Attilio ha vinto con Cremona la sua battaglia durissima per la salvezza, sono stati bravi. Ma Attilio è veramente un coach da SOS, hai capito? C'è proprio uno che di emergenza, voglio dire, che ormai è specializzato in queste cose, ne ha diverse, nel Bacheca adesso, la squadra che ha salvato, ho messo a posto. Due anni fa ho messo Milano in Eurolega, poi io penso che Roseto sia il capolavoro della carriera di Attilio, forse insieme a Costa di Cremona quest'anno, quindi lui è veramente nato per fare questo. Non è un bel lavoro, perché lo stress quando entra, squadra in difficoltà, hai poco tempo, non hai cominciato la preparazione e ci vuole, secondo me, un approccio, un talento particolare. Attilio è uno che riesce a mettere la squadra a posto in 2-3 giorni. Questa, io personalmente parlo di me, lo troverei per me difficile se non impossibile. Ci vuole un talento particolare e lui ce l'ha. Cosa ne pensi? Grazie coach. Beh, io dico sempre, bisogna leggere il tema e correggerlo, non bisogna strappare, anche se ovviamente il foglio sarebbe da strappare, perché dopo che arrivi la squadra va così male. Cremona avevano un 4 su 16, 25%, era da strappare e buttare via, però non hai il tempo per fare questo, allora devi cercare di correggerlo, cercare di prendere delle cose positive e giorno per giorno allungare quelle cose positive, dare fiducia, andare per gradi, fare dei piccoli step pass volta per volta, fare delle scelte su dei giocatori su cui devi puntare per cercare di dare più responsabilità a pochi giocatori. Partiamo da pochi giocatori, poi quando le cose vanno un po' meglio cercare piano piano di allargare sempre di più, però devo dire che ho sempre fatto con questo metodo, e questo metodo è andato positivo. Ecco, coach, invece parlando di playoff, visto che siamo nel vivo della stagione, per adesso diciamo tutto come previsto per quanto riguarda le prime partite che abbiamo visto. Ecco, e anche messaggio ai naviganti. Esatto, messaggio ai naviganti, 120 punti con il 69% da 2 e il 52% da 3 contro Treviso, che qualche settimana fa l'aveva battuta in casa. Treviso ha fatto il grave errore della Siena e vince la partita, ovviamente si sono legate al dito, ovviamente con questo risultato qua che è veramente devastante, cioè 38 punti. Ammetto di non aver visto la partita, ma ho preso notizie questa mattina, ha dato una prestazione, cioè Siena lo vedevo anche un po', non so come dire, non al top durante questo ultimo, dopo l'eliminazione di Eurolega, che ovviamente è un colpo tremendo per una squadra, però adesso che i playoff, l'eliminatoria, il titolo in vista, queste cose qui si sono rimesse in carrozza, e questa è veramente una brutta notizia. Poi ci sarà un'inchiesta federale, perché 3 su 3 dei pronostici per Peterson, è vero, ragazzi, ecco, comunque avevo velatamente nella Gazzetta sparato qualcosa e ho detto: le squadre di provincia negli ultimi anni arrivano ai playoffs e si smontano, cioè proprio vanno lì e escono 3-0, cioè proprio sì. E quindi bisogna stare attento a questo qui, quindi io non credo che i vari Monte Granaro o altre cose riescano a fare una cosa, perché la soddisfazione è tale in provincia di salvarsi o di andare proprio ai playoff che è impossibile, mentre le grandi squadre, Siena, le grandi città, Roma, Milano, hanno un'altra carica, la spinta di tifoseria, la società, lo sponsor, è di andare più lontano possibile, quindi io penso che andranno più lontano possibile. Sì, Cantù non è una squadra di provincia invece, Coach. Anzi, no, è la squadra più vera di tutte dopo Siena. Yeah. Ma io dico questo, Cantù, certo, è una squadra di provincia, e qualche volta, per esempio 0-5, quando sono andati fuori 0-3 con Milano, dopo aver fatto 2-0 in campionato, ma anche si sapeva che andava via Stonero, che andava via Cauchino, se si parlava che andava via Arrigoni, se si parlava che andava via Sacripani, cioè sembrava che c'è tutto smontato e quindi per questo l'hanno perso. Però Cantù non è come una squadra di provincia, né Varese, tanto per dire, per motivo semplice, vantano una grande bacheca piena di trofei, cioè hanno vinto a livello europeo, al limite italiano, eccetera. Quindi non hanno questa mentalità provinciale. Loro hanno passato, il passato dice: ehi, non siamo soddisfatti con o la salvezza o i playoff, vogliamo di più, e quindi la spinta è lì. Mentre io penso che nelle altre squadre di provincia non c'è esattamente la stessa spinta. Esatto. Grazie, coach. Buon viaggio di ritorno, ciao, da Madrid. Un abbraccio a te, complimenti. Grazie, ancora. Coach, okay? Grazie, grazie. Grazie, coach, ciao. Dan Peterson, ci ritroviamo naturalmente venerdì, quando io ho un messaggio per Danilo Gallinari, che dovrebbe essere, così ci hanno detto, promesso, e quindi ve lo annuncio già, dovrebbe essere qui con noi venerdì prossimo. Ti dico che ieri sera era, esatto, al forum. E io avevo una domanda su Milano per Attilio Caia. In molti sostengono che Milano, più andrà avanti nel cammino playoff, e più diventerà pericolosa, visto il fatto che è una squadra che si sta rinnovando. Tu sei d'accordo su questa visione, visto che l'hai anche incontrata e vista dal vivo la squadra? Beh, direi di sì, vista Milano ieri sera, veramente ha scampato un bel pericolo, perché obiettivamente non ha giocato una buona partita, era probabilmente anche in difficoltà nel senso di inserimenti di nuovi giocatori, sembrava quasi un po' in precampionato, cioè dopo al 15° o al 14° del secondo tempo c'era già in campo il secondo quintetto, quindi 5 che erano partiti in quintetto base erano in panchina, c'erano in campo i 5 del secondo quintetto, e a questi c'era da aggiungere Becirovic, che poi non è mai entrato, quindi è chiaro che è un po' di lavoro in corso, e quindi è stata un grande peccato per Montegranaro, che aveva veramente una grandissima occasione, non ne ha approfittato, e strada facendo io penso che tutto il tempo sia a vantaggio di Milano. Dalla prossima partita, con i giusti accorgimenti, ogni partita saranno accorgimenti per Milano, saranno sempre più le chiare le cose, perché l'allenatore avrà modo di conoscere meglio Monroe, meglio Arnold, i giocatori di conoscersi meglio tra di loro, cioè come usare al meglio Arnold, come usare al meglio Monroe, loro sapere come i compagni gli possono dare la palla, e quindi sicuramente se Montegranaro non ha vinto ieri, la vedo veramente difficile che possa riuscire. Che è incredibile, lo sport che va un po' al contrario. Siamo qui al 21 di maggio, playoff iniziati, giocatori che devono conoscersi, squadre che devono alla fine nascere. Anche la Virtus Bologna, per esempio, anche in la una Virtus, situazione ma simile. Anche Roma in una situazione simile. Milano mi dà sempre l'idea di avere, a più tardi sarà con noi Marco Mordente, il nostro uomo dei playoff, altra rubrica che introduciamo in queste puntate dedicate ai playoff. Milano ha ammassato, l'impressione, tanti giocatori diversi, ma io continuo a non vedere gerarchie precise in questa squadra, e questo secondo me è abbastanza preoccupante. Dalla provincia di Milano, primo ascoltatore di oggi è Stefano, 800240024. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ho conosciuto Coach Caia ai tempi della Fernet Branca, della promozione con Oscar Schmidt. Sì, io qualche anno prima. Una domanda: secondo lei non era più giusto attribuire il titolo di allenatore dell'anno ex equo a Coach Trinchieri e al coach di Caserta? Sacripanti. Sì. Ma penso che, sai, quando ci sono diversi allenatori che abbiano fatto bene, io continuo a dire anche l'allenatore Pianigiani, perché sai, vincere penso che sia sempre un grande merito, non è facile, ma soprattutto perché lui stravince. Ieri ha vinto di 40 punti, quindi anche lui ha fatto un bel lavoro, così come hanno fatto un ottimo lavoro e il campionato di Cantù e il campionato di Caserta sono stati eccellenti. Quindi sai, alla fine direi che scegli bene. Senti, volevo leggerti un messaggio invece, che è questo di Dario da Rovigo: una squadra non retrocede per errori arbitrali. Ma quelle due fischiate, il fallo a Ford e il mancato antisportivo su Spinelli, sono state scandalose e fanno pensare che forse il basket non doveva sparire dal Piemonte. Questo ovviamente sulla scorta delle ampie polemiche innescate dal patron di Ferrara Mascellani, che ha detto ci hanno fatto retrocedere gli arbitri, e questo bisticcio a distanza con Meneghin, tutte cose, capisco la rabbia, ma cose di cui avremmo volentieri fatto a meno, secondo me. Carlo, non devono dirlo a me, perché Ferrara ha vinto a sì, Cremona con una fischiata incredibile, veramente, che se fallo di Formenti a tempo, esatto, scaduto, a tempo scaduto su un rimbalzo che la palla era già finita fuori, un rimbalzo attacco che a detta di tutti non c'entrava neanche niente, e hanno vinto quella partita che probabilmente, persa quella partita lì, finisce già il campionato. Quindi io penso che, insomma, se ci fossero veramente delle cose da fare, i disegni oscuri si fanno, esatto, cioè non è che si aspetta all'ultimo momento, all'ultimo secondo per fare una cosa, si fanno nel tempo. Quindi no, io credo che un arbitro possa fare bene, fare male, cioè come in quell'occasione, dico, l'arbitro ha sbagliato, nettamente ha sbagliato, però non credo che un arbitro parta con un preconcetto di fare certe cose o qualcuno gli metta un disegno, così via. L'arbitro è un uomo come tutti gli uomini, che siano allenatori, che siano giocatori, può fare degli errori, e poi un arbitro, è chiaro, a seconda della sua esperienza ne fa più o meno, però insomma anche lì ridursi a dire ad un episodio è come se tu perdi e guardi sempre l'ultimo tiro che ha sbagliato il tuo giocatore. Sì. La partita si gioca sui 40 minuti, non come sull'ultimo tiro del tuo giocatore. Un altro messaggio invece interessante, che è questo, ma perché te volevo parlarne, no? A proposito, per chiudere questo discorso, il livello arbitrale di questo campionato che è appena finito. Ma insomma, io penso che gli arbitri siano in Italia un buon livello. Io ho avuto modo nella prima parte della stagione di commentare l'Eurolega e vedere tante partite Eurolega. Ogni volta che c'era il nostro arbitro era sicuramente il migliore della terna. Ho visto altri arbitri veramente fare delle cose che mi sono lasciato anche andare in qualche commento non propriamente positivo. I nostri arbitri sono sicuramente in un buon livello, poi possono fare errori come li fanno tutti, ma raramente ho visto una partita decisa per errori arbitrali, e quantomeno poi nell'arco totale un campionato, una classifica che non rispecchi il valore per degli errori arbitrali. Il messaggio che volevo leggere era questo, anzi ce ne sono due diversi: 2300 spettatori al Forum di Milano per una gara di playoff dopo i 2005 nell'esordio contro il Real in Eurolega. Io invece leggo anche che in 12 ore hanno esaurito i biglietti per la sfida tra Milano e New York, che è una stupenda vetrina, ma certo non è una partita né di Eurolega né di playoff. In 12 ore non era mai successo in Europa di esaurire con questa fretta pazzesca i biglietti per una esibizione di una squadra NBA. Sì, la domanda sorge spontanea: cosa serve per riempire anche, esatto, quel palazzo? Vorrà dire che se gli dai qualcosa di stuzzicante da vedere, la gente va, no? Ecco, non vale rispondere a una squadra che vince, perché questo non va. Insomma, penso di no, che in passato c'è stato anche grandi manifestazioni di partite in cui il Forum c'era, se non esaurito, quasi esaurito, vicini. Adesso ieri sera era veramente un po' così spiacevole vedere quella cornice di pubblico, e questa squadra non ha dato quei segnali che la gente si aspettava di credibilità, di identità di gioco, di avere qualche giocatore importante in cui identificarsi, e quindi ecco, forse in questo caso possono aspettare. Io sono convinto che però questa squadra, se dovesse arrivare alla finale gente la fai, però non è da guardare solo l'episodio finale, sarebbe da guardare di creare uno zoccolo duro nel quale tutte le partite così così pure gara 1 del quarti finale tu abbia almeno 6 o 7 mila persone, questo sì. Sarebbe la cosa importante. E quello cosa te lo dà? O un sistema di gioco in una squadra dove tutti possono veramente fare un certo tipo di pallacanestro, aggressiva, corsa, tiro, cioè che gioca anche sui 90 punti, oppure qualche giocatore che possa essere un giocatore franchigia. Giocatore franchigia in cui nel tempo tu ti possa riconoscere, e adesso invece secondo me su queste componenti a Milano sono mancate, e questa è la... Come era per la tua Milano Gallinari. Esatto, Gallinari era stato un giocatore di grande importanza, o come lo era prima ai tempi altri giocatori nelle annate prima, quando erano arrivati a giocatore. Beh, lì si era creato lo zoccolo duro, perché si faceva una palestra piacevole anche ai tempi di quando era tornato Djordjevic. Ecco, anche lui era un personaggio importante, e quindi ha fatto anche lui un'ottima annata, arrivata culminata con la finale, e insomma palestra piacevole da vedere. Cioè, adesso invece, forse anche per caratteristiche di questi giocatori, una pallacanestro molto più a metà campo, molto più difensiva, che anche per, cioè solo per intenditori, però sì, intenditori sì, magari sono 2000, invece gli altri 2300. Mario, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, no, non sono in provincia di Ancona, ma di Teramo. Ah, di Teramo, allora. In quanto io sono un tifoso del Roseto Basket. Sì. E al coach lì presente forse ricorderà qualcosa. E credo di sì, eh. Sì, io volevo chiedere solamente, siccome lui quest'anno ha ottenuto una bellissima salvezza a Cremona, se sicuramente si ricorda di quella favolosa che ottenne a Roseto qualche anno fa con 5, massimo 6 giocatori, e volevo chiedere se intravedeva qualche similitudine tra i due campionati. Ancona, comunque, cioè lei dice Roseto e Cremona. E Cremona, sì, sì. Sì, sì, assolutamente, è un esempio che io mi sono portato dietro tutto l'anno, ho fatto diversi esempi. Le similitudini sono state che in tutte e due ci siamo salvati all'ultima giornata, a Roseto all'ultimo gli ultimi secondi, sì, me ne ricordo. E mentre invece là un po' meno. C'è stata anche lì una rimonta importante, l'anno di Roseto Avellino ha fatto una rimonta importante e ha vinto quattro partite consecutive. Durante l'anno, tutto l'anno, Cremona dicevano: ma quanti punti bisogna fare per salvarsi? E facevano delle proiezioni, cioè questa squadra ha vinto tot partite fino adesso, quindi basteranno. Ha detto attenzione, che le finali di stagione succedono cose incredibili. Io mi ricordavo che quell'anno a Roseto, per esempio, Avellino aveva vinto 5 partite su 25 e poi aveva vinto 5 delle ultime 6. Quindi era 5 su 24, quindi non c'entra, perché alla fine succedono, la disperazione ti fa fare certe cose. Quest'anno è successo qualcosa di simile, perché Ferrara ha fatto una grande rimonta, però come Avellino 5 anni fa perse la penultima, dopo aver fatto una grande rimonta, la penultima partita in casa contro Livorno, quest'anno Ferrara ha perso la penultima partita in casa contro Caserta, dopo aver fatto una rimonta incredibile. Quindi ci sono state molte similitudini. Quest'anno avevo una squadra un po' più lunga, però quando era neopromossa, meno tradizione, ho avuto meno tempo, perché là ero entrato a dicembre, sì. Quindi qua invece a febbraio era di te, qui diciamo che tutte e due molto molto difficili, una per un senso, una per l'altro. È come quando sei all'interno della stessa partita, fai la grande rimonta, poi se non riesci a mettere il naso avanti finisce che la risacca ti riporta, certo, certo, sul fondo. Una novità, abbiamo reclutato Marco Mordente. I playoff visti dal campo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Ciao, come stai? Bene, voi come state? Non c'è male, non c'è male. Ti manco? Moltissimo, moltissimo, come ben sai. Preparatevi, arriverò presto. No, siete gli occhi un po' in fibrillazione per l'Inter, però vabbè, adesso lo teniamo legato alla sedia. Stare tranquilli. Perché? Perché io non sono interista, però sensazioni che quando c'è un grande come Mourinho come direttore d'orchestra, tutto sotto controllo. Sono d'accordo. Fortuna che siamo per radio, però, così non si vedono i gesti vari. Senti, no, niente, lascia perdere. Cosa cambia in campo per i playoff? Cosa c'è di diverso? Qual è l'elettricità per i playoff visti dal campo? Intanto un bel po' più di botte e mazzate, e quelle fanno sempre bene. Cambia la fisicità, cambia il fatto che tutte le squadre vanno in campo chi più chi meno, ma con tutta un'altra testa, molto più leggera, molto più pronta e cattiva per giocare la serie. Basta vedere sempre, non so, ieri sera Montegranaro che rispetto a 10 giorni fa ha giocato tutt'altra partita. Ecco Marco, io volevo chiederti questo, voi come state dal punto di vista del work in progress, nel senso che state cercando di inserire due giocatori, l'impressione, ne parlavamo prima anche con Attilio Caia, che più passa il tempo e più voi avrete una quadratura diversa rispetto a quella attuale. Noi purtroppo, hai detto bene te, work in progress, lavoro in corso, perché comunque abbiamo inserito due nuovi giocatori. Anche se ieri alla fine il gruppo che c'è dall'inizio ha dato una bella mano, c'è bisogno da quel punto di vista lì di tempo. Per fortuna nella schifezza della partita ieri da noi, dovuta a tanti motivi, siamo riusciti a portarla a casa, che vuol dire molto, vuol dire andare a giocare domani, essere più tranquilli e probabilmente ritrovare anche il nostro ritmo. Quali motivi, Marco? Il motivo è il fatto che sapevamo delle condizioni precarie di Mason, non c'è, Mason non c'è, i due nuovi giocatori, il fatto che avevamo giocato a Treviso una partita pessima dal punto di vista dell'atteggiamento, quindi tutta una serie di motivi. E questi purtroppo, tutti questi motivi ci hanno, secondo me, riempito la testa di pensieri. Quando siamo riusciti invece a liberarcene, nel terzo quarto abbiamo giocato un po' meglio e abbiamo fatto anche il break. Dalla tribuna hai avuto questa impressione, Attilio? Sì, soprattutto ho avuto l'impressione che dal punto di vista difensivo, nel terzo quarto, appunto, tornando ai giocatori più abituati a giocare assieme, hanno fatto un lavoro difensivo più importante. Montegranaro ha perso diversi palloni, loro sono riusciti ad andare in contropiede e sostanzialmente a chiudere la partita. Poi c'è stato purtroppo un episodio, 10 secondi, che il grande Rock Mason ha fatto un po' due ingenuità una di seguito all'altra, che sono costati 7 punti in 13 secondi, che hanno rimesso lì la partita. Però ormai l'aveva in mano, con la quadratura difensiva soprattutto fatta dai giocatori che erano più pronti, più abituati a giocare insieme. Marco, voi Roma, Bologna, work in progress, si diceva prima, state inserendo giocatori all'alba dei playoff, la squadra invece già fatta e già vera è quella dei vostri nemici sportivi, cioè Cantù. Loro in pochi o in tanti, al completo o non, riescono sempre a giocare, a macinare l'avversario. Questo è un grande merito che bisogna fare, tanti complimenti che bisogna fare a Trinchieri, perché comunque il suo sistema, il suo modo di giocare, dove coinvolge tutti, riesce a far sentire i protagonisti tutti, alla fine ha ragione. E mi fa piacere, perché alla fine vedere Cantù che gioca in questa maniera, questo basket, è solo un bel vedere. Bravo Marco. Marco, intanto ieri è stata una giornata importante anche per un'iniziativa che ti vede protagonista, e si chiama Un Nido per l'Aquila, insomma sei testimonial di questa iniziativa, la costruzione di un asilo nido proprio all'Aquila, 25 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ce la vuoi un po' raccontare? Io vengo a mettere i mattoni, se hai bisogno. Tutti veniamo a mettere i mattoni. La cosa più bella di questa iniziativa, che non è una... non bisogna raccogliere delle cifre immense, bisogna raccogliere una cifra abbastanza piccola, 400.000 euro, perché la struttura è un prefabbricato in legno, quindi fatto gli scavi, che bisogna farli prima possibile, poi si mette giù la struttura e i bambini possono avere la possibilità di tornare a sognare, a giocare. Questa cosa è nata e ci stiamo dietro da 3-4 mesi, non ci sono solo io, ci sono tante altre persone, tipo il fotografo Marco Monari, un regista, un'organizzazione che va avanti e cerca di mettere tantissimo impegno per poter ridare una struttura a, secondo me, la parte più importante della società, che sono i bambini. Ieri è stato ufficializzato, ci sono diversi modi per poter contribuire, uno è il 5 per 1000 e l'altro è PayPal, e l'altro ancora invece è un numero di conto corrente. Io spero vivamente di vedere a settembre o fine ottobre, quando il freddo aquilano ancora non si avvicina, riuscire a vedere realizzato questo bellissimo progetto. Beh, sentiamoci, facci sapere, intanto ci sentiamo venerdì prossimo a quest'ora. Sì. Poi comunque basta vedere anche in internet, c'è il sito www.nidoperlaquila.it, oppure vedere sulla mia pagina di Facebook poter vedere tutti i vari contatti, sì, tutti, sì, quelli che ci sono dietro, perché comunque è una cosa. Il terremoto è stato un anno fa, ma io ci tengo da abruzzese che non si dimentichi di quelle persone, soprattutto dei bambini. In modo più assoluto. Marco, la metteremo anche sulla pagina di Facebook di Palla Spicchi, così almeno allarghiamo un po' la compagnia. Grazie, vi ringrazio, soprattutto colgo l'ultima cosa, scusate, ringraziare, sì, anche Montegranaro, che nelle partite in cui giocheremo a Montegranaro, speriamo da parte Marco Mondo giocatore una partita sola, ci dà la possibilità di essere al palazzo e di portare avanti questa iniziativa. Senti Marco, ma Lapo ieri si è comportato bene? Non ha toccato palloni vaganti e volanti? Lapo no, è stato lì seduto, secondo me l'avevano bloccato le mani dietro e non lo facevano alzare. L'hanno messo i lucchetti. Grazie Marco, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao a tutti. Alla prossima con Marco Mordente. Abbiamo un sacco di ascoltatori, Andrea da Ancona, Marco da Cremona, Andrea da Milano, direi di parlare subito con loro. E poi una curiosità di Nicola da Carpinetti, che giro subito ad Attilio, ma Nicola, potete chiedere a cosa il mitico Oscar si impegnava in allenamento? Come no, certo che si impegnava, giocava, soprattutto faceva un po' fatica nel lavoro degli esercizi sulla difesa, ma per quanto riguarda poi quando c'era da giocare, l'altra sia nel lavoro campo di contropiede, sia nel lavoro di attacco, e quindi era molto utile per il lavoro difensivo degli altri, perché con lui l'allenamento era al 100%, d'altronde per avere quelle medie, quelle percentuali, tenere quel tiro come ha sempre tenuto, doveva allenarsi sempre così, faceva anche un lavoro supplementare e quindi per i suoi compagni in allenamento era veramente difficile. Quindi si chiama passione per il gioco, amore per questo gioco, amore vero. Andrea Ancona, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo chiedere un commento sulla situazione della Virtus Bologna, in particolare anche poi un parere su il ruolo che Maggioli ha all'interno della squadra. Ho visto purtroppo ieri sera la partita a Cantù e è stato imbarazzante, ecco, da vecchio tifoso Virtus. Vedere una squadra giocare così male sembrava una partita di precampionato, sì, non c'era uno schema. Ha ragione Andrea, soprattutto partire così male, perché insomma ieri la Virtus ha regalato l'avvio di partita a Cantù, che ovviamente non si è fatta pregare, ci ha messo sopra le mani, ma partire con un quintetto, Jackson appena arrivato, Moraschini, Prato, Sanichizze, Maggioli, mi sembra che troppi punti non ci siano in quelle mani, insomma un quintetto un po' strano proposto da Lardo. Beh, però Attilio, aggiungo questo, perdere Collins e Koponen non è neanche facile, soprattutto dal punto di vista voglio dire, per un allenatore. Koponen non rientrerà, probabilmente rientrerà invece Collins, cioè facile non è comunque. No, assolutamente, facile non è, però obiettivamente poi bisogna capire il perché si è arrivati a fare certe scelte, però è un quintetto quello che può giustificare due punti in sette minuti, perché Moraschini 17-2 dopo sette minuti ha fatto due punti, perché Moraschini fa fatica a guardare il canestro, perché Prato in un momento della stagione un po' in difficoltà, Sanichizzi in attacco anche lui a livello di guardare il canestro non è il massimo, Maggioli era la prima punta offensiva, e pur con tutto il grande rispetto e considerazione che ho di Maggioli, che è un ragazzo che ho allenato da 10 anni fa a Pesaro, che ho seguito sempre con grande piacere, che è arrivato a ribalta, però insomma la squadra un po' sbilanciata, dopodiché sono entrati anche altri giocatori, da Mos che ha fatto un'ottima partita, a Vucevic che ha fatto bene, a questo Kangur e a questo Jackson, che è un giocatore secondo me estremamente interessante, considerato alla prima partita un giocatore che ha una velocità di base notevole, e però sai anche Green ha una velocità di base notevole, ma questo è 1,90 e quindi quando va dentro può veramente andare fino in fondo e fare male, e quindi un giocatore che può crescere di volta in volta. Io ti dico, dalla partita di ieri sera, anche considerato l'infortunio di Horner, sì, perché ieri sera i lunghi di Cantù hanno demolito i lunghi, sì, sì, di Bologna, da Mikova all'inizio, chiaramente Mikova contro Moraschini ha avuto vita molto facile, infatti Mikova ha deciso il primo break del primo quarto, è stato molto frutto di Mikova. Poi la partita è vissuta su quel break. È vissuta su quel break lì, da Mikova contro Moraschini, da Lönen e Lideka, che hanno demolito i lunghi della Virtus. però devo dire anche con l'assenza di Horner, e penso che da questa partita la Virtus trarrà le giuste motive di quello che è stato per riprendersi, se ripartiranno dal punto a punto del secondo, sì, secondo sì, quarto, perché anche se ieri sera la Virtus non ha mai dato l'impressione, almeno quantomeno io non ho mai avuto l'impressione che potesse poi vincere la partita, certo. Però detto questo, io oggi se devo fare se mi chiedi un pronostico, dico che all'arco finale vedo favorita la Virtus piuttosto di Cantù. Anche perché il parziale del secondo tempo 33-31 e dopo il 23-10 del primo quarto, chiaramente. Sì, sì. No, ma dopo quel break la Virtus è rimasta punto a punto, il problema è che c'era già il fosso. Però Carlo, mi sembra che, visto che ho iniziato la stagione a fare così, commenti con loro, erano molto contenti del risultato e di quello che avevano fatto e così via. C'è voglia di pallacanestro. Sì, sì, sì, sì, voglia di pallacanestro c'è, e poi basta vedere anche questa manifestazione che si diceva prima delle Milano contro i Knicks, bruciate, richieste per 75.000 biglietti, quindi insomma bruciati. C'è voglia di pallacanestro, e poi ci saranno sempre con l'andare dei playoff, io sono convinto che saranno palazzi pieni anche nei campionati minori. Io ho avuto modo anche di vedere, commentando sempre inizio stagione, partite di Lega 2, palazzi pieni di Lega 2. Mi ricordo una partita di Brindisi in trasferta, Brindisi muoveva 1000 persone in trasferta, Sassari un impianto sempre pronto con la regione per dare un contributo, Veroli un'altra realtà molto importante. Ci sono grandi piazze a livello di B anche, cioè veramente il movimento, movimento c'è, ci sono anche fermento di società che vogliono prendere e acquistare diritti sportivi, ammesso che ci siano qualcuno che voglia magari passare la mano. Quindi, tra l'altro, la settimana scorsa Andrea Bargnani diceva a questi microfoni, forse sta un po' qui la differenza, in NBA si vende il prodotto, cioè si va in giro per l'America a vendere un determinato business, il business è la pallacanestro. Forse noi non siamo in quest'ottica, per noi la pallacanestro è ancora legata al risultato sportivo, forse è quello che ci impedisce di fare grandi numeri. Beh, ma è un po' la nostra cultura, da noi il risultato sportivo, uno quando vede una partita deve tenere per una squadra, e non è che va lì per vedere lo spettacolo, anche perché poi obiettivamente, sai, lo spettacolo che posso dare due squadre americane con giocatori di un certo livello, con giocatori di un certo atletismo, certo, con giocatori di un certo talento, è uno spettacolo, con tutto il rispetto per i nostri. Cioè, noi dobbiamo dare adrenalina, cioè, esatto, noi dobbiamo dare adrenalina, facciamo fatica a dare certi spettacoli vedendo certe partite con certe qualità sia tecniche che fisiche. Dobbiamo vendere adrenalina, il basket ci riesce benissimo. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Io volevo parlare un attimo di Milano, nel senso che secondo me dopo 2 anni di esperienza gestione Proli Buchi ci sarebbero da fare qualche riflessione, secondo me, sia da un punto di vista tecnico, visto che ormai in 2 anni abbiamo cambiato una roba come 24 giocatori e sinceramente il livello del gioco è stato decisamente basso, e contando che secondo me, come dicevate voi, secondo me a Milano non è che non c'è voglia di basket, c'è molta voglia di basket, però il basket deve essere basket e non sberenball, insomma, che è un'altra roba, secondo me. Sì, io sono abbastanza d'accordo, no? su questa analisi, ma perché parlano i fatti, mi sembra parli il campo, parli i risultati e parlano soprattutto i 2300 che c'erano ieri al forum, per tutti i motivi che abbiamo sottolineato e analizzato. Milano non è contenta semplicemente di questa squadra, e mi sembra sia nei fatti questa considerazione. Eh beh, insomma, ieri sera non è stata una partita, però poi sai, alla fine magari riescono anche a fare un risultato, e poi l'ideale sarebbe però, ecco, ripartire. Anche l'anno scorso era stato, no? Si fa gli esempi ancora dell'anno scorso, un annato un po' così e così, per un modo o un altro si è arrivati in finale, poteva essere un punto di partenza quello, cioè ripartire da certi giocatori, ripartire da una squadra, da Hawkins, e inserire altri giocatori, secondo me anche Catelinas era un giocatore che meritava, che poteva fare, ripartire da quelli per continuare ad andare avanti, e invece si è perso quello, e poi sull'onda lunga di quel cambiamento si è arrivati adesso che dopo 8 mesi prima dell'inserimento del playoff mettere altri 2 giocatori, sì, e fare come ieri che dopo 12 minuti Milano aveva già schierato 2 quintetti e erano già 10 giocatori in campo e soprattutto era sotto nel punteggio dopo un primo tempo brutto. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ci terrei a girarti la domanda dell'ascoltatore di prima, di Marco da Cremona, che non avrei sentito ma la riassumo. c'è voglia di pallacanestro secondo te? Dati di ascolto televisivi, affluenza nei palazzetti, è un ascoltatore un po' preoccupato. C'è un bacino d'utenza ancora grande per la pallacanestro, Flavio? Guarda, non conosco nel dettaglio e soprattutto non sono in grado di discernerli i dati di ascolto e neanche quelli dei palazzetti, che normalmente vengono resi noti a fine stagione. Quelli di ascolto proprio non li conosco perché è lontano dal mio mestiere. Io credo che ci sia voglia di pallacanestro, ma comunque non è scritto in quei dati né se sono in aumento, né se sono in recessione, né se, come credo, sono sostanzialmente in stagnazione, perché la mia lettura di quei dati è stagnano da 20 anni. Ma il problema è non che non ci sia voglia di pallacanestro perché quei dati sono in stagnazione. Il problema è che la voglia di pallacanestro non riesce a corrispondere a quei dati per problemi relativi alla pallacanestro come sistema. Posso dire, mi lasci dire che in questo momento, saltando l'oceano e andando a playoff che sono ormai ampiamente in corso, mi lasci dire che Boston è la squadra che gioca la miglior pallacanestro del mondo oggi, 21 maggio? Ti lascio abbondantemente dire questo, e se posso precisare un po' il concetto, ti dico che è quella che gioca la pallacanestro più completa, ovvero sia la somma della metà campo offensiva e la somma della metà campo difensiva, al momento mi sembra la migliore, la squadra di pallacanestro più forte del mondo, però al momento mi sembra nei Lakers. Sì, sono d'accordo, però è proprio quella somma che cui io facevo riferimento. Vedi, la pallacanestro Boston è arrivata ai playoff con una squadra abbastanza spaccata, vecchia, stanca, senza nessuna chance, si è ricompattata nei playoff. Beh, insomma, penso che la differenza la faccia poi la qualità dei giocatori, la personalità dei giocatori, e quindi insomma, se hanno le qualità, la personalità per fare risultati nei momenti chiave, sono quelle le cose che saltano fuori. Cioè, non è che sanno quello che devono fare, sanno come stare in campo, non è che fa la differenza quello che tu gli possa dire, uno schema nuovo che tu gli possa fare o una tattica. Quello è la differenza, sta dentro di loro. Mentre mi sembra che Cantù, Flavio, sia una splendida squadra di pallacanestro, ma senza quella qualità necessaria per sperare di arrivare in cima a una montagna inespugnabile. Non credo, perché la forza è sicuramente quella del gruppo, però poi la montagna è inespugnabile per Cantù come per 7 o 15 o 14 che siano, quindi Cantù in questo non è particolarmente diversa rispetto alle altre. Il problema, o meglio, la cosa buona di Cantù è che al momento Cantù ha esattamente le stesse possibilità degli altri di andarla ad espugnare. Non è che se la incontra in semifinale allora ha fatto peggio di chi la incontra in finale. Per ora, se andiamo a fare l'analisi di tutta la stagione, secondo me Cantù è, per qualità di pallacanestro, la seconda miglior squadra della stagione, relativamente naturalmente al potenziale. Sono d'accordissimo con quanto tu dici. Ci sentiamo domenica, Flavio, solita ora. Sarà fatto. Grazie. Grazie Flavio Tranquillo. 8:30, 9:00 domenica siamo qui, e da fino naturalmente a fine playoff, assegnazione dello scudetto. Mi restano 30 secondi, oltre che per ringraziare tutti i presenti, per girare ad Attilio una domanda di un ascoltatore. Gianni, chi vedi vincente nei playoff di Lega 2? Nome secco. Veroli per i playoff di Lega 2. Grazie Attilio. Grazie a voi. Grazie Attilio Caia, Flavio Suardo, vicino a me Franco Piantanida, in redazione Carmelo Lauricelli in regia. Vi ricordo, 22:30, 12:00, vi aspetto qui per vivere insieme la finale di Champions League.